sono sempre quelle, non sono cambiate dal 24 di febbraio. Quel giorno la piazza era piena, c'erano molti pensieri e piano piano nel corso dei mesi si è anche capito che c'erano diverse anime, ma noi siamo tornati in piazza in marzo, con una piazza piena alla metà, siamo tornati in piazza il 2 giugno e Europe for Peace ha mobilitato un presidio in luglio, eravamo ai primi giorni, ai primi vagiti di questa coalizione e oggi, passato anche la fase elettorale che ha lasciato spazio ad altri protagonisti e soggetti, diciamo che ci riproponiamo. E d'altronde questa mobilitazione è legata alla convocazione del 5 novembre della manifestazione nazionale a Roma e vuole essere un momento che ci lancia verso quell'appuntamento. Tra le rivendicazioni c'è appunto ovviamente che tacciano le armi e che si apra subito un negoziato. Esattamente, questa è la posizione, questo è il testo del comunicato della manifestazione, come del comunicato nazionale per questa mobilitazione. Devo dire che su questa piattaforma, su questo testo ci sono state anche importanti convergenze all'interno anche del mondo sindacale, si è come dire un po' ricostituito un percorso di riavvicinamento, se non altro, che porta oggi questo momento di mobilitazione a vedere un'energia più unitaria rispetto anche a quello che all'inizio di marzo avevamo visto invece essere un po' una difficoltà che percorreva il movimento quando CISL e UIL in particolare si erano chiamati fuori. A Bologna saranno due appuntamenti, un convegno e una manifestazione. Esattamente, ci sarà un convegno in sala borsa all'auditorium Biagi, e questo nel pomeriggio. Siamo consapevoli che l'orario non è comodo e semplice per chi ha lavoro, per chi ha famiglia, per chi ha bambini. D'altronde ritenevamo importante offrire un momento di riflessione e di ascolto anche di voci importanti nazionali, di cui stiamo raccogliendo le conferme in queste ore. Però ecco, ritenevamo che fosse importante che ci fosse questo momento, e poi il momento della mobilitazione in piazza alle 6:30, piazza del Nettuno, tra le 6:30 e le 8. Queste ultime settimane a livello politico si è registrata una sorta di competizione per le manifestazioni per la pace. E voi che idea vi siete fatti? Ma l'idea che da una parte c'è, rimane un po' così il riflesso di voler mettere le bandierine di chi è in difficoltà rispetto a un filo di rappresentanza dei temi e dei pezzi della società civile. Io credo, ma non sono io, lo dicono voci ben più autorevoli, che non sia il caso di avere questo tipo di approccio e che soltanto, come dice anche padre Alex oggi intervistato sul Fatto Quotidiano, sono soltanto i grandi movimenti popolari che possono lasciare un segno e un input di cambiamento, e in questa direzione bisogna andare, e questo è lo spirito della manifestazione nazionale del 5 novembre, a cui bisogna tutti arrivare, contribuire, andando oltre i distinguo, abbassando le bandierine identitarie. Solo la bandiera della pace deve, come dire, rappresentare tutti quanti, e chiedendo nella chiarezza di non essere giudicati, di essere da una parte o dall'altra, affinché la pace non sia sinonimo di filoputinismo, consapevoli della complessità delle ragioni, dei torti, nella chiarezza che c'è un aggressore, che c'è un paese aggredito, ma con la assoluta necessità che si riproponga un lavoro serio e determinato perché si costituiscano le condizioni affinché ci sia una trattativa e un accordo che sia accettato da tutti, nella dignità di tutti, nella non umiliazione di ogni soggetto. Io credo che, tra l'altro, come Occidente su questo, come dire, credo che i nostri movimenti un po' lo rappresentino, la postura con cui ci poniamo di fronte a questi temi vada un pochettino ripensata. Se pensiamo di essere completamente detentori di tutte le ragioni e di tutto ciò che è la giustezza della causa che si sta portando avanti, no, io credo che ci voglia un dibattito serio, un dialogo, un ascolto, e affinché si possano comporre le ragioni di tutti. E crediamo che l'ONU sia la sede, non la NATO o il G7, in cui questo percorso va realizzato. Purtroppo in questi anni abbiamo fatto di tutto affinché l'ONU fosse sempre meno in grado di svolgere questo ruolo, però io credo che è lì che si debba tornare. E c'è una frase che mi ha colpito sempre nell'appello nazionale di Europe for Peace, che entra un po' anche su quelle che sono le retoriche che troviamo anche sui media nazionali. Voi dite: non c'è una guerra da vincere, l'unica cosa da vincere è la pace. Sì, io non sono un grande esperto e non mi voglio porre come tale, e però se noi guardiamo la nostra storia, la storia dei conflitti in cui il nostro continente, il nostro paese è stato coinvolto, ogni volta questo punto si ripropone. Purtroppo credo che il discorso della guerra sia, come dire, si sia fatto avanti, sia stato imposto nei fatti in modo per una certa parte irreversibile. Quindi oggi si sono inviate le armi vengono usate, i missili vengono lanciati, le bombe atomiche che vengono intanto verbalizzate nel discorso pubblico e poi forse anche piano piano preparate. Come dire, è chiaro che la nostra voce in questo momento è una voce debole, è una voce che può essere accusata di idealismo, può essere accusata di essere fuori dalla realtà, eppure credo che la realtà più profonda, ripeto, anche della storia, di tutti i conflitti che abbiamo visto, è che quando si esce da un conflitto se ne può uscire in due modi: o imponendo le ragioni del più forte e si preparano le ragioni del conflitto che ci aspetterà, o mettendo insieme e componendo le ragioni di tutti in un accordo che restituisca nella pace la giustizia di cui c'è bisogno.